Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Una signora che si è rovinata con il gioco. Ha giocato Gratta e Vinci, Lotto, pensione intera, affitto di casa, e quindi ha mandato sul lastrico la propria famiglia. I proventi del gioco d'azzardo nel nostro paese coprono il 4% del PIL nazionale. L'anno scorso sono stati giocati 80 miliardi dagli italiani. Noi non dobbiamo giocare tanto per vincere poco, noi dobbiamo giocare poco per vincere tanto. I soldi vanno guadagnati, bisogna dire alla gente che non deve farsi rubare né i soldi né il tempo. Ci siamo, torniamo a parlare di gioco d'azzardo. È un tema caro agli ascoltatori di Melog, più volte lo abbiamo sfiorato, lo abbiamo lambito, abbiamo riflettuto sul demone del gioco o sulla libertà di potersi giocare anche le proprie risorse più preziose. Qualcuno già mi sta scrivendo sull'SMS, rifacendosi al lancio che abbiamo fatto poco fa, dice: non è che non abbiamo giocato abbastanza da piccoli, che abbiamo perso l'ultima speranza che ci resta per il futuro. Quindi l'ultima speranza per il futuro è appoggiata nel gioco d'azzardo. Siamo un popolo di grandissimi giocatori, ma lo diventiamo sempre di più, lo siamo in maniera esponenziale, lo siamo attraversando tutte le categorie sociali. Ultimamente poi si parla molto di gioco d'azzardo in occasione del quello che deve essere un decretone, il decreto del ministro Renato Balduzzi, il decreto sulla sanità. C'era appunto una voce che prescriveva alcune regole di sicurezza che avrebbero dovuto in qualche maniera arginare la fame di gioco d'azzardo, tra cui stabilire dei termini di distanza fra le scuole, i luoghi di aggregazione di giovani, gli anziani pure, perché gli anziani sono assatanati quanto i giovani nel giocare, le parrocchie, gli oratori, insomma dove c'erano categorie a rischio, le sale gioco, i luoghi della tentazione devono essere distanti almeno 500 metri. I giornali sparano titoli a piena pagina, le lobby hanno vinto, è stata accorciata la distanza, 200 metri invece che 500 metri. Su questo è soltanto uno dei lati accessori, però è un tentativo comunque che c'è stato di porre rimedio a una dilagante passione. Io mi domando, ma cambia molto la distanza, 200 metri, 300 metri, nella capacità di muoversi velocemente nelle città, nella capacità di avere molto tempo a disposizione? Sì, perché chi gioca molto ha abbastanza tempo a disposizione, vuol dire che il suo tempo non può impiegarlo in attività per lui proficue, redditizie o di soddisfazione. Oppure quale potrebbe essere una possibile soluzione? L'estrema liberalizzazione: ognuno faccia quel che vuole, ognuno è padrone della propria vita, della propria esistenza, dei propri soldi, fa ciò che vuole. E poi risponderanno le mamme, le nonne, le zie, le mogli, i mariti, i figli, che vedono queste persone perse per il gioco, come se fossero tanti anacoreti nel deserto, che invece che la cornucopia piena di delizie, di cibi, di donne nude, c'è semplicemente una slot machine. Oppure poniamo i braghettoni alle slot machine, nascondiamole, come una volta accadeva nei luoghi in cui si affittavano DVD, che sono sempre meno. C'era la saletta dei DVD zozzi che era chiusa, c'era davanti una tenda, c'era scritto vietato l'ingresso ai minori, e questo incentivava sempre di più ad andare a dare un'occhiata in quella saletta. Cosa ne pensate? 800 24 00 24. È la terza impresa italiana, l'unica con il bilancio in attivo anche in tempi di crisi, e il gioco d'azzardo, con un fatturato legale nel 2011 di circa 79,9 miliardi di euro. In pratica, per tentare la fortuna nel nostro paese si spendono più di 1.200 euro a testa. Tra i giochi più redditizi ci sono le cosiddette macchinette mangiasoldi. Nei primi sei mesi del 2012 hanno raccolto 24,4 miliardi, il 55,2% del totale, merito soprattutto dell'impennata delle videolotteries, differenti dalle new slot perché permettono di incassare fino a 500.000 euro e perché sono soggette a regole più rigide. Non possono essere piazzate infatti in bar e tabacchi, ma solo in sala d'occhio. Già, ma arrivano le prime segnalazioni, i primi coming out di signore, di tranquille placide massaie o inquiete massaie, poi sono fatti loro, che raccontano e dicono quanto non riescono a resistere. Io forse ho perso un po' d'occhio la realtà, non so perché non sono stato lambito da questa improvvisa lussuria per il gioco, ma evidentemente questo non accade per la maggior parte dei miei amici che vivono nel mio stesso paese. Maurizio Fiasco, buongiorno. Maurizio Fiasco è un sociologo che da 14 anni studia il fenomeno del gioco d'azzardo per la Consulta Nazionale Antiusura. Ma esiste ancora un nesso così stretto fra lo strozzino e il giocatore incallito? Beh, diciamo che l'ha rilanciato, perché prima lo strozzino, come la figura del cambista, stava all'esterno del casinò a Sanremo, a Venezia, eccetera, e aspettava lo spennato che uscisse dalla sala degli specchi. E ormai avendo esaurito il fido, perché per giocare al casinò bisogna registrarsi e stipulare un fido, un contratto con una banca locale, e non essendo più affidabile lo aspettava il giocatore che gli rilasciava un assegno a vuoto, ovviamente, con un interesse del 10% giornaliero. Questo era il panorama di una volta. Adesso in spiccioli, in maniera un po' più plebea, l'uscita di una sala da gioco, cioè quello che ti presta 50-100 euro, e ne vuole 150 il giorno dopo, la settimana dopo. Quindi però cambia la modalità lievemente. Intanto noi pregherei Maurizio Fiasco di mettere giù il telefono, lo richiamiamo perché c'è un po' di disturbo sulla linea, invece è importante che si ascolti bene quello che lui dice. Cambia la metodologia, cambia il sistema, cambia probabilmente anche il tipo di giocatore che andava al casinò, apparteneva a un'area ristretta dell'umanità, che si sapeva, si guardava, poveretta quella donna, c'è il marito che ha il vizio del gioco. Oggi è un po' più difficile stabilire il giocatore attraverso una categoria rischio, una categoria estrema. Abbiamo anche Fabio Felici. Fabio Felici, buongiorno. Buongiorno a voi. Fabio Felici, direttore dell'Agicos, che è l'agenzia giornalistica concorsi e scommesse, è un giornalista che si preoccupa e si occupa di dare informazioni nel campo del gioco. Sei anche tu d'accordo che ci sia una situazione... Abbiamo parlato più volte di gioco, abbiamo analizzato, abbiamo detto quanto sia importante per il PIL nazionale, non lo dimentichiamo, almeno gran parte dei giochi, però bisogna capire anche questo, quanto poi realmente incide nelle situazioni a rischio, nelle situazioni sociali. Una domanda ti faccio subito precisa, cambia molto secondo te la distanza 200 metri, 500 metri, un chilometro dai luoghi sacri dell'aggregazione delle categorie a rischio? Certo, cambia molto, a vantaggio... un ritorno del gioco illegale, del gioco gestito da mafia e camorra, perché quegli spazi lasciati liberi non rimarranno liberi ma verranno occupati, come succedeva 6-7 anni fa, da organizzazioni criminali. Quello che a me dà molto fastidio, a parte il gioco viene visto solo nelle finanziarie per recuperare soldi in qualsiasi modo, e sembra che sia il male del terzo millennio, che tutti si uccidono, si spari per il gioco, non so cosa. Il gioco è forse questo cancro del terzo millennio che è esploso e non ce ne siamo accorti. Però, ma non è così. Mi sembra che avvertito in questa maniera è un fenomeno più che altro nazionale. In maniera così compulsiva e con tanta attenzione, in questo abbiamo un primato forse, non lo so, rispetto ai giocatori europei. Noi siamo quelli che ci mettono un pochino più di soldi, mi sembra. Ma noi ci mettiamo un pochino più di soldi perché, voglio dire, la passione per il gioco in Italia fa parte delle nostre tradizioni. Il gioco del lotto esiste da 500 anni, è il gioco più vecchio ancora attivo al mondo, quindi noi ce l'abbiamo nel DNA. Voglio dire, ma a parte il fatto che per esempio la ludopatia, il termine di cui tanta gente si riempie la bocca, non è ancora ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, non per questo non esistono i ludopati, esistono e ci sono, ma vengono date delle cifre completamente fuori dal mondo, perché le cifre, e io posso assicurare che ho fatto ricerche attraverso gli istituti, l'Istituto dei Gemelli che si occupa delle compulsività, l'Istituto di Campo Formido, la SIPAC, lo sportello per l'SOS Gioco, ma gli italiani saranno tra i 500-600 mila, e sono tanti, premetto, sono tanti, che possono avere problemi col gioco. Problemi vuol dire magari problemi con l'usuraio, problemi di dipendenza e così via. Gli alcolisti sono più del doppio certificati, però non viene impedita la pubblicità del vino, il vino non fa male, tutto quanto, e il gioco sì. Dà fastidio questo volere inquadrare il gioco solamente come male terzo. In una zona grigia in cui esiste una sorta di contaminazione con le forze del male. Maurizio Fiasco, come la pensa lei rispetto a quello che ha detto Felice? Diamo qualche informazione perché sennò ragioniamo in astratto. Allora, quest'anno noi che non giochiamo dobbiamo mettere 1 miliardo delle nostre tasche per coprire il buco che nel bilancio dello Stato ha creato il gioco. Mi spiego. L'anno scorso abbiamo giocato 80 miliardi e lo Stato ne ha incassati meno di 9. Quest'anno le proiezioni ci dicono che ne giocheremo 100, cioè il 12% dei consumi degli italiani, e lo Stato ne incasserà 8. Siccome abbiamo iscritto in bilancio che ne avremo incassati 9 e questo miliardo mancherà, poi spieghiamo perché mancherà questo miliardo, significa che anche lei e io, che non ho mai messo una lira se non per provare, perché per fare i miei studi, in una macchinetta di slot machine, dovrò con le mie tasse compensare questo buco di bilancio. Perché? Perché si sono sostituiti dei giochi che davano un'alta remuneratività per lo Stato con dei giochi che sono quasi a tasse zero. Per esempio i casinò online sono tassati allo 0,60. Allora c'è stato un effetto di trasferimento da un gioco a un altro con conseguente buco di bilancio per lo Stato. Allora, il momento della verità arriverà, prima o poi arriverà, perché possiamo differirlo di un anno e mezzo. E cosa accadrà secondo lei? E accadrà che si capisce che intorno al gioco in Italia si è creata una bolla finanziaria, una bolla speculativa, una bolla con tutta una serie di business derivati, il povero Cristo che sta lì dalla mattina alla sera a mettere le monetine nella slot machine neanche si rende conto, o la casalinga che andando al mercato e vorrebbe migliorare la propria dieta acquistando delle cose migliori passa alla sala giochi o alla sala dei gratta e vinci vicino al mercato rionale e poi però perde alla fine la dieta. Ma fa parte dell'effetto bolla allora questa enfasi sulla ludopatia, come dice allora, Felice? La ludopatia innanzitutto non esiste, perché non siamo ammalati di slot machine o di tennis compulsivo, casomai siamo ammalati di gioco d'azzardo patologico, che è la definizione canonica, la definizione scientifica, cioè se non ci fosse il denaro non sarebbe divertente giocare, perché cos'è di più noioso che infilare una monetina in una slot machine? Dove sta la lussuria forse simbolica della fessura, insomma, no? Boh, ognuno cioè, si diverte a modo suo, sì, su questo. Ma se non ci fossero i soldi o grattare un tagliando del gratta e vinci, è una delle cose più stupide e più noiose che ci possa essere. E che non vorrebbe raggranellare denaro, è questo il fatto. Certo, se non c'è il denaro non c'è la motivazione, no? Le posso dire una gentilezza, Fiasco? Sì. Dovrebbe tenere un pochino più lontano, ha un telefono che gracchia un po', se lo tiene un pochino più lontano. Ma forse la vostra linea, però. Ah, comunque sì. Adesso va un po' meglio. Sì, così è perfetto, così è perfetto. Sì, le dicevo, il differenziale non è dato dall'operazione in sé che è divertente del giocare, perché se giochiamo a tennis e perdiamo le operazioni, o anche al videogame con lo sparatutto, le macchinette che corrono, il divertimento sta proprio nelle manovre che facciamo. Nel gioco d'azzardo non c'è niente di più noioso della meccanica del gioco. Quello che lo rende attraente è la possibilità di essere compensati con una vincita in denaro, è tutto lì la differenza. Se noi lo chiamiamo ludopatia, siamo ammalati di che cosa? Del footing, della corsa a ostacoli, insomma. Forse per questo pensano che tenendoli più lontani dalle parrocchie e dalle sale giochi, magari la gente. Intanto servirebbe, secondo lei, quello? Sarebbe utile. Mettiamo qualche numero: le slot machine in Italia sono 10 volte che in Francia, 420.000, e stanno dappertutto, nelle mense aziendali. Ecco, io, per esempio, abito in un quartiere ai confini del centro storico, ho 19 sale da gioco, sotto casa mia, nel raggio di 25 metri, ne ho 3. Tre con superfici che vanno dai 150 metri ai 1000 metri quadrati, cioè un casinò vero e proprio. Allora c'è un impatto sul tessuto, sulla quotidianità, se vado poi all'ufficio postale c'ho il totem che distribuisci gratta e vinci, ovviamente è una tabaccheria. Gli autobus sono pieni di pubblicità, ieri in contemporanea vedevo la pubblicità su un autobus e la sentivo per radio. Diciamo, ma questo farebbe parte... Un'inflazione anomala. Ma farebbe parte comunque di un sistema di pompaggio di una bolla che poi scoppierà, se mi sembra aver capito. Esattamente, perché il business a questo punto non è neanche più nel ricavato dei giochi, il business sta sulla costruzione di prodotti finanziari, perché qui giocano tutti, giocano anche i concessionari che sono indebitati, perché per entrare nel gioco, non avendo capitali o patrimoni loro, si sono dovuti far prestare i soldi. Alla scadenza devono restituire questi soldi, qualcuno ce l'ha, qualcuno non ce l'ha, e ha chiesto a degli istituti collegati alle banche di emettere delle obbligazioni con cui rifinanziare il debito. Allora, è chiaro che se il mercato del gioco in Italia non crescesse di anno in anno con questi valori a due cifre, anomalo rispetto a tutto il resto del mondo, se non si esclude l'isola di Macao, è chiaro che se non cresce a due cifre, la possibilità di differire il momento della restituzione non ci sarà più, ma c'è un limite fisico perché siamo arrivati al 12% dei consumi privati degli italiani. Quindi siamo vicinissimi, secondo quello siamo che dice il sociologo Maurizio Fiasco, all'esplosione di una bolla che non è tanto il gioco come viene denunciato sui giornali, la gente si strappa le vesti, le povere mogli con i mariti portati via dal gioco, i pensionati si giocano la pensione, no, ma è qualcosa di molto più sottile, c'è un indotto sommerso che è qualcosa che assomiglierà a un grande crollo, improvvisamente ci renderemo conto che si ammoscerà tutta questa grande macchina e qualcuno ne farà le spese. Sentiamo Mario. Mario, buongiorno. Buongiorno, mi Lei sente? È un gestore di slot machine. Esatto. E cosa fa? La sua giornata come si svolge? Dunque, in che senso mi scusi? Mi no, la sua giornata, male. Cosa fa un gestore di slot machine? Non ne ho idea, è una domanda. Raccoglie i soldi. Cioè lei fa il giro di tutto? Raccoglie i soldi. Con la cassetta dei soldi. Ma gira armato, sì. Non ha paura di essere rapinato? No, me l'hanno proibito di portare, l'ho fatto, ho cercato di avere un porto d'armi, non me l'hanno dato. Quindi lei con quanto gira mediamente in tasca? Quando ha raccolto... No, ma noi abbiamo un piccolo giro, 4-5 mila euro. Sì, però tutte monetine, quindi deve portarsi una carriola praticamente. No, anche soldi. Ah. E quindi lei fa il giro e porta i soldi. E cosa ha da dire rispetto a quello che diciamo noi? Intuisce che ci possa essere... Ma intanto per cominciare io sono d'accordo con il sociologo, perché il prodotto interno lordo quando passa al 10% del PIL già sistematicamente lo blocca una parte dell'economia. Ma vede, lo Stato è formato da gente incompetente, perché qualsiasi materia che fa sbaglia. I slot machine probabilmente non hanno avuto dei tecnici sufficientemente attrezzati. Le spiego. Siamo partiti con macchinette che si inseriva la monetina a 50 centesimi. La massima vincita era 50 euro. Bene. Siamo passati con più filotti di vincita, si arrivava a 300, 350, 400 euro. Le più ardite 500 euro. Benissimo. Siamo passati con le comma 6A. Tecnicamente nuovi modelli, quelli super collegati con la tessera, insomma, quelli che non possono sfuggire. E a quanto si arriva lì? Si arriva a 100, massima vincita, e filotti di 1200. Siamo passati alle VLT, che sarebbero videolotteri, dove la massima vincita è 500.000 euro. Allora mi segua, se l'illusione di vincere 500.000 euro, la gente butta giù i soldi ed è troppo per le famiglie. Dovevamo rimanere a 350. Quindi secondo lei si è alzato troppo il livello di attesa, sì, della vincita. E poi c'è troppi potentati dietro. Lei pensi che le VLT, noi si paga il 12%, le VLT pagano 4%. Ecco, ma una volta tutto questo desiderio di giocare, a chi andava in tasca? Una volta c'era il gioco clandestino. Era sommerso, andava a noi, era un far west. Era Far West, chi era più forte, più attrezzato, esatto, e più prepotente vinceva. Voglio raccontare un episodio. Un giorno dovevo mettere dei giochi in un chioschino e io andai a proporre questi videopoker. È arrivato un mio collega che gli offriva ballerine di lap dance una volta alla settimana, il 70%. Beh, grazie. Mi sono inorridito. Con l'offerta pelosa aggiuntiva è chiaro che vinceva il collega. Non so come potesse. Ma io sono una persona seria. Ma rilanciare. Quindi diciamo non che. Non ho avuto denunce sì, però 5 questo... anni di onesta professione. Questo era veramente un far west. Eravamo ai limiti, nell'illegalità pensi pura. Le dico un'altra cosa che è più interessante. Una volta era tutto gestito dalla SIAE, perché i videogiochi erano gestiti dalla SIAE. Mentre. A un certo punto, circa nel 2001-2002, cambiò la musica. Siccome che era anche quello un grosso paradosso, cosa c'entri la società autori, editori, con i giochi d'azzardo? C'entrava con i videogiochi, perché noi dobbiamo pensare che il nostro settore è nato dai videogiochi. Ah, l'autore della storia del videogioco. Dai flipper meccanici, da tutto quello che era il settore. Allora, dato che l'allora PD litigò per le feste unità con la SIAE, ci fu un anno di sbalzo perché levarono la concessione della SIA e andò all'ufficio del registro 2 anni dopo. Nel frattempo non pagò neanche un euro di tassa. Diciamo da una disputa legata alle feste dell'unità passò di mano la gestione del gioco. Senta, le posso fare una domanda? Un ascoltatore mi scrive e dice: lo sai che le macchinette sono truccate? Quando i gestori chiudono le porte, fanno il giro delle sale, delle slot e le svuotano. Non so cosa voglia dire. Ci trova... No, lui riguarda una cosa, alcuni miei colleghi disonesti o alcuni baristi disonesti che vedono la persona che gioca tutto il giorno, poi chiudono la porta quando questo ci ha lasciato un bel po' di soldi dentro e le svuotano loro. E vi fregano a voi? E vi fregano a voi? No, non fregano, perché le macchine, se sono collegate, ripeto, sono collegate normalmente e quindi hanno... Poi ripetiamo una cosa, dica a quel signore che noi abbiamo una procedura standard, cioè se le macchine non vengono lette entro 6 giorni, la macchina si blocca in FF40. Si autosigilla. Ma dove vi siete nascosti, giocatori compulsivi, ludopati immersivi, sperperatori da retrobottega? Non vedo persone che mi dicono sì, mi sono rovinato la vita al gioco, mi sto rovinando, non ne posso fare a meno. 800240024. Questa mattina parliamo di gioco d'azzardo, in tutte le sue declinazioni, in tutte le sue immerse possibilità di evoluzione. Eliseo. Ah, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, la mia storia è abbastanza semplice. Io nel settembre del 2005 ho perso il lavoro. Costruivo, insomma, serramenti in alluminio e con la liquidazione ho cominciato, insomma, a scommettere. Vabbè che scommettevo anche prima. Ha pensato di investire la liquidazione in gioco d'azzardo? Sì, vabbè, non tutta, perché insomma... Ma aveva progettato proprio questa parte, me la gioco. Ma guardi, dottore, io già prima ancora che perdevo il lavoro già facevo delle picque vincite, perché ma non ci sarà un nesso fra la sua perdita del lavoro e la sua passione per il gioco? No assolutamente. Guardi, io sto inattivo, non le racconto proprio balle, io sono inattivo, sono sposato con 2 figli, mia moglie poverina è leggermente handicappata, quindi fa la casalinga e non gli ho fatto mancare niente. Certo, i primi tempi lei si lamentava, dice ma cercati un lavoro, io dicevo senti, ma quanto ti serve a te al mese per vivere? 1200, 1300 per la casa e tutte le spese, eccoli qua, e glieli davo in anticipo e quindi l'ho zittita. Quindi lasciami divertire e statene. Sì, infatti, no, ma vede, ho sentito prima macchinette, gratta e vinci, quelle cose lì non fanno per me. Io studio dalla mattina alla sera, quando arrivano i palinsesti sui miei siti online, che ne ho addirittura 4, studio, per esempio oggi sono usciti quelli di sabato e di domenica, di tutto il mondo, più di 1145 partite. Quindi lei cosa gioca soprattutto, principalmente? Calcio. Ma lei deve capire, ma penso che lo sappia, che una partita, una sola partita, ci sono quasi 12-13 voci. Le voci sono praticamente, non è solo... Che ad esempio, me ne dica qualcuna per far capire. Roma-Lazio non è 1x2, cioè 1x, 1-2, x2, under e over a 1,5, 2,5, 3,5, che sono i quanti gol... Quindi altro che la schedina, bisogna avere un computer per giocare. Puoi giocare anche pari e dispari, se la partita finisce pari e dispari, gol o no gol, se finisce tutte e due che segnano o non segnano, si può giocare il primo tempo, si può giocare anche per esempio se durante i 45 minuti se una sola squadra segna un gol. Insomma, si passa un sacco di tempo, occupa un sacco di tempo questa attività. Sì, però poi i resoconti sono ampiamente ripagati, perché io, per esempio, nelle nazionali... Cioè lei, diciamo, sostituisce un secondo lavoro con il gioco. Ma non ce l'ho un lavoro, io l'ho mollato tutto. Ah, quindi lei mantiene la famiglia, con la moglie handicappata e tutto, giocando? Io, guardi, prima quando lavoravo facevo meno l'amore, adesso lo faccio di più l'amore, perché ho più tempo libero. Quindi sua moglie è ancora più contenta, altro che i 1200 euro in mano. Guardi, io sono molto forte nelle nazionali, le dico che quando è stato 2 giorni fa, no? Ho giocato alle nazionali, ho messo 500 euro e solo 4 squadre. Scusi, Eliseo, anche bisogna stare attenti, io non vorrei far passare l'idea che può diventare un lavoro. No, certo, no. Cioè, vabbè, lei è sempre sul filo del rasoio. Sì, però io sto inattivo, cioè, ma io studio veramente tanto, lei mi deve credere. Io mi sono comprato un iPad e sto sempre lì a studiare. Mi chiedo se e di questo ci vive, non ha nessun altro introito? Non ha nessun altro introito? No, ho solo questo. Ma scusi, io facevo l'operaio, prima prendevo l'ultima busta paga, mi ricordo, era 1482 euro. Però arrivavano sempre, il gioco non è detto che arrivino sempre. Beh, guardi, forse io perché ho un intuito abbastanza superiore. Vabbè, ognuno, può essere che lei abbia una tal fortuna. Fabio Felici, direttore Agicos, che è un'agenzia giornalistica di concorsi e scommesse. Trovi plausibile la testimonianza dell'Iseo che mantiene una famiglia soltanto giocando? Esiste una maniera scientifica per vincere sempre? mi lascia un po' perplesso questa cosa. No, assolutamente non esiste la maniera scientifica, e sono d'accordo con te che non deve passare il messaggio che questo cioè il gioco possa diventare un lavoro, perché poi si rischia di sbordare nella parte sbagliata del gioco. Quindi se un signore è particolarmente fortunato, particolarmente dotato, buon per lui, e buon per lui che faccia tante volte l'amore, per carità. Però scusa, sì, diciamo che sono entrambi i campi in cui è molto facile millantare il tanto amore e il tanta vincita al gioco. Ci tenevo a fare una precisazione rispetto a quello che ha detto prima l'amico Maurizio Fiasco. Quest'anno è vero che lo Stato incasserà di meno, ma a vantaggio dei giocatori, perché i giocatori si sono spostati sui giochi su internet, che hanno meno redditività dello Stato, ma perché rendono di più ai giocatori. Figuriamoci che nei primi sei mesi di quest'anno gli italiani hanno speso meno per il gioco. Cioè, sembra una contraddizione, dice, ma come, il gioco cresce del 12%? Sì, ma gli italiani spendono meno, la spesa reale, quella che ci esce dalle tasche, è minore. Perché? Perché si vince di più, ci sono giochi a maggiore redditività, quindi vincendo di più i soldi veri che escono dalle tasche sono minori. È quello che diceva però l'ascoltatore che amministra le slot machine, aumenta il montepremi e quindi... Diciamo, quei soldi che mancano allo Stato finiscono nelle tasche dei giocatori, e non so fino a questo punto quanto sia sbagliata la cosa, perché alla fine rientrano nelle tasche di chi li spende, quindi forse addirittura è meglio che finiscano nelle casse dell'orario. Ma detto questo, io volevo fare poi una piccola provocazione. Il gestore delle slot machine giustamente si ricordava a memoria che nel 2005 quello era un mercato completamente in mano a mafia e camorra, completamente. I 100 giocate senza limiti, 100 euro giocati in un bar, venivano divisi tra la camorra, chi gli portava la macchinetta, e l'esercente, senza pagare tasse e tutto. Lo Stato ha fatto un'opera di pulizia importante, ancora in atto a distanza di 7 anni, quest'opera di pulizia, ci sono le macchine collegate allo Stato. Si pensa che togliendo le macchine, togliendo il gioco, allontanandoli dalle scuole e tutto quanto, si risolve il problema? Io dico, togliamo il gioco, gli italiani non giocheranno più, se il gioco è il male del secolo, eliminiamolo, è molto semplice. Però Fabio, non è che il proibizionismo ha fatto smettere le persone di bere? No, appunto, secondo me non funziona il proibizionismo. Le regole ci sono, dal 1 gennaio di quest'anno è vietato il gioco a tutti i minori. Io esercente che faccio giocare un minore, mi chiudono la serranda, devono applicare le regole ci sono, non è che non ci sono. Io tutti questi interventi sui giochi li trovo assolutamente pretestuosi per riempirsi la bocca. Io sono cattolico e praticante, però noi siamo il paese della Chiesa, del Papa, quindi quando si parla di gioco pare che si parla del demonio, ma non è così. Maurizio Fiasco, sociologo, studioso del fenomeno, il tuo punto di vista. Sì, è noto che al quartiere bar tutte le slot machine sono collegate al cervellone dei monopoli, no? Per cui quando arriva il boss e viene accolto durante la festa patronale, c'è l'immagine abbiamo visto le immagini, che tra l'altro ha vinto anche un premio giornalistico il giornalista che l'ha realizzato, no? Lì praticamente il sistema regolativo dello Stato controlla tutte le slot machine. Peccato che c'è un processo a Venezia in corso per 100.000 slot machine disconnesse, quelle di vecchia generazione, ma ce ne sono sicuramente altrettanto. Però è come dice Felici, sono persone che non osservano le regole, come chi non paga le tasse. C'è un'organizzazione che sistematicamente disconnette le slot machine, perché forse si fa il peana della storia di successo della regolazione delle slot machine o dei giochi d'azzardo online. È come se questo avesse eliminato la criminalità. In realtà la criminalità l'ha incorporata, una parte di questa quota l'ha strutturata al suo interno, per cui formalmente è un gioco legale, ma sostanzialmente è un gioco illegale. Ma mi spieghi meglio questo meccanismo, sì, che non mi è molto chiaro. Allora, praticamente io voglio manomettere una slot machine, cioè voglio che l'ammontare delle scommesse, di quello che viene inserito, non risulti allo Stato se non in una minima però, parte. Scusami, è come, tutto il resto. Ma è come se io manomettessi il contatore della luce a casa, è chiaro, finché mi va bene passa. Esattamente, ma come lo faccio? Praticamente prendo i numeri seriali, i codici della slot machine, li monto su uno strumento informatico, un computer, per cui mando delle informazioni al cervellone dei monopoli come se quella slot machine stesse regolarmente funzionando con un ammontare. È un crimine informatico, diciamo. È un crimine informatico che è impossibile da controllare, perché le slot machine sono 420.000. Se va il poliziotto a ispezionare la slot machine e non è un tecnico informatico sopraffino, quella slot machine risulta in regola, perché telefona, dice la slot numero 2752, sta funzionando, la state controllando, e i monopoli gli dicono sì, la soggetti è perfettamente in linea, la stiamo monitorando. In realtà stanno monitorando il clone di quella slot machine, ma questo è uno dei esempi, ne possiamo fare 100.000. Ma su questo chi è che indaga? La polizia postale? Indaga la polizia postale, la Guardia di Finanza, e a Roma 6 agenti della mobile, altrettanti dei carabinieri e altrettanti, o forse qualcuno in più, della Guardia di Finanza. E a Roma di slot machine ce ne sono 65.000, quindi puoi immaginare qualche controllo c'è, è una foglia di fico questa del controllo. Sentiamo un attimo Mario, scusi. Mario, gestore di slot machine, onestamente, allora, le risulta questo meccanismo? Volevo rispondere due cose. Allora, quel processo di Venezia è un processo alla nazionale elettronica per alcune macchine. Erano sequestrate non perché illegali o perché venivano manomesse, perché avevano una forma di pagamento dei filotti troppo ravvicinato. Questo era il problema delle slot machine. Di cui sta parlando. Ma esiste l'hackeraggio delle slot machine? Cioè esiste sicuramente? Allora, l'hackeraggio delle slot machine è semplicemente uno schedino che si mette all'esterno della macchina, e sa quello è da anni che la Guardia di Finanza e soprattutto ora la CIA lo controlla. Come avviene controllato? Vabbè, comunque è un'attività illegale. Certo che è illegale, vengono anche arrestate le persone. Mi sembra anche normale. Quindi è vero quello ora che dice Fiasco. La CIA, che è stata fatta organo di polizia dal Guardia di Finanza e dal Polizia di Stato, quando avviene un controllo si controlla prima di tutto quello che sono le licenze attaccate alle macchine, che sono tre: nulla osta, nulla osta di messa in esercizio, e quello fondamentale è la regolamentazione della macchina, quindi l'omologazione della macchina. La CIA, l'agente della CIA entra nel bar, mette una monetina nella macchina, chiama il provider e in tempo reale sa quanti soldi sono stati messi. Se la macchina gli risulta un euro, stop, va bene. Ma il clone come si individua? Il clone si individua perché dà la metà dell'incasso. Ah, ecco, quindi rispetto. C'è un sistema. Solo che basta aprire la macchina, perché quando c'è un problema, si apre la macchina, si vede la contabilità, viene la trasmissione. Fermo un attimo Mario. Giuseppe, buongiorno. Pronto? Sì. Buongiorno, salve. Senta, io stavo sentendo la vostra trasmissione, chiamavo perché io ho fatto per un po' di tempo l'agente, non solo per i noleggiatori ma anche per alcuni siti sportivi, e sentivo, diciamo, un pochino, non di inesattezza, a parte il giocatore che ha chiamato all'inizio, sicuramente un esaltato, non era un professionista, mi sembrava un professionista. Sì, diciamo, si vantava un po' troppo sia di prestazioni erotiche che di vincite, ma associando le cose in realtà si è svelato. Sì, perfetto, perfetto, perché i professionisti sulle scommesse esistono, soprattutto sui siti online, ovviamente non alla SNAI o alla SISAL, e vengono costantemente allontanati, perché è gente che veramente vince e gioca sugli errori che sono vuote in tutto il mondo. Come una volta i professionisti che andavano nei baretti per spennare i poveri polli, la stessa cosa. Perfetto, perfetto, la stessa cosa, e vengono allontanati. Poi per quanto riguarda le slot, la verità è solamente una, poi si può parlare... Allora fermo, la verità se è una, torniamo a parlare di gioco d'azzardo. Vedo che sul profilo Facebook Melog Radio 24 stanno scrivendo molte persone. Carlo dice: sono un giocatore compulsivo. Benissimo, mentre aspettiamo altre testimonianze ci eravamo interrotti con Giuseppe, che ha lavorato come procacciatore d'affari e ci stava facendo una rivelazione. Sì, no, dicevo che per quanto riguarda poi il mondo delle slot, VLT, la verità è solo una, forse potrà confermarvela anche il noleggiatore che in parte è stata detta, cioè che lo Stato guadagna tantissimi soldi, è socio senza investire niente, gli unici che investono sono non solo i concessionari ma i noleggiatori. E poi diciamo che soprattutto per quanto riguarda le VLT... Sì, però non è un cattivo affare per loro. Per lo Stato no, assolutamente. Ma nemmeno per chi ha le mani in pasta nelle macchinette, secondo me, o sbaglio? Sì, però sì, vero, però forse gli ultimi, cioè quelli che distribuiscono sul territorio, sono i noleggiatori, forse sono proprio quelli che ci guadagnano meno. Per quanto riguarda il vostro Mario, che è un piccolo noleggiatore, se poi invece si parla di aziende che sviluppano software, grafiche, macchinette nuove, quello no, perché poi sono intrelazzati con la politica, con i monopoli di Stato. Però io so che chi apre comunque un casinò virtuale di videopoker non è un cattivo investimento. Magari all'inizio non lo è il cattivo investimento, diciamo che non è un cattivo investimento perché oggi i grandi noleggiatori investono insieme al gestore, cioè se lei vuole aprire una sala arrivano e dicono: io le faccio la fumatori, le faccio i lavori, le faccio il bar, però lei deve rimanere 2 anni con me. ha queste percentuali, quindi guadagnano meno, poi si rendono conto dopo 2 o 3 anni alla fine che... E chi invece investe nell'online? Se io, Rocchetti e Tonti, volessimo aprire un sito e diventare padroni di un casinò virtuale per fare il videopoker, guadagneremmo bei soldi? Sì, sicuramente. A me risulta di sì, devo dire. Sì, sicuramente sì, però lì c'è un altro discorso, cioè c'è la distinzione da fare tra il .com e il .it. I .com sono praticamente siti che hanno sedi legali e quindi pagano le tasse, non so, a Londra o a Malta o in Slovenia o in Austria, mentre invece .it sono quelli che stanno sotto i monopoli di Stato. Ovviamente come... Quindi un .com guadagna, il .it è un lavoro... Non guadagna, non... guadagna solo... È un lavoro come un altro. Fermiamoci un istante. Matteo Iori, buongiorno, presidente del CONAGGA, Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d'Azzardo. Chi siete esattamente? Il CONAGGA è un coordinamento nazionale che si occupa di accogliere persone che hanno un problema di dipendenza da gioco d'azzardo, un'attività che i nostri... È come l'autoaiuto per gli alcolisti? Una cosa simile, diciamo che però noi gestiamo dei gruppi con dei professionisti che appunto sono esperti del tema delle dipendenze, però è una cosa simile all'autoaiuto. Cioè vi mettete tutti in una stanza, si alza uno, io sono Gianluca, sono un giocatore d'azzardo, ho smesso e tutti batto le mani. Non con queste modalità, anche al nostro interno ci sono gruppi diversi, alcuni fanno psicoterapia, altri autoaiuto, modalità diverse. L'importante, ciò che ci accomuna tutti è di cercare di dare una mano a chi ha una dipendenza da gioco d'azzardo. Quindi esistono questi malati, anche se non riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, come diceva Fabio Felice? Allora, intanto ci sarebbe da ragionare, ma adesso per sintesi non si può fare, sul fatto che a mio avviso l'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 1980 riconosce il gioco d'azzardo come una patologia importante, e quindi su quello non sono d'accordo, sul fatto che non sia riconosciuto. Anzi, l'Italia era uno dei pochi stati che ancora non lo riconosceva. Adesso per fortuna col decreto Balduzzi questa cosa almeno è stata sanata. E il fatto che sia riconosciuto cosa significa? Che io mi passano le cure se vengo a farmi curare da voi? Guardi, fino a ieri, nel senso che adesso con l'articolo 5 del decreto Balduzzi viene riconosciuto all'interno dei LEA il gioco d'azzardo. I LEA sono i livelli essenziali di assistenza, cioè quelli che permettono un cittadino di avere... Certo, mi viene un gratuite. Po' da pensare che vengono fatti tagli, adesso sarà l'argomento a trasmissione domani, nel campo dell'handicap e il Servizio Sanitario Nazionale si occupa dei giocatori compulsivi, comunque ognuno ha i suoi problemi. Prego. Sì, però secondo me non è una forma che secondo me ha un senso, almeno l'Italia, che in questi anni tutti i governi negli ultimi 20 anni hanno promosso sempre nuove forme di gioco d'azzardo per fare cassa. Poi, come diceva Fiasco prima, in realtà il fare cassa è diventato sempre minore a livello di percentuale rispetto... Se ne deve occupare poi dei risultati. Si deve occupare della patologia. Noi non è come l'assistenza per i mutilati e invalidi di guerra. Ti ho mandato in guerra e giustamente ti do la pensione. Sì, è come perché oggi lo Stato accoglie delle persone con un problema di dipendenza da alcol. Vende l'alcol, ha un monopolio l'alcol, ricava dei soldi lo Stato per l'alcol, però sa che c'è una percentuale di persone che ha una dipendenza e quindi si fa carico delle cure di queste persone. E vale anche per quelli che hanno i tumori ai polmoni derivati da malattie da fumo. Esatto. Purtroppo per i giochi non è mai stato così. Oggi finalmente, inserito nell'articolo 5, c'è quello dei LEA, quindi ogni persona potrà in teoria andare a servizio. Strano che non aprano pubblico. Che non aprano il libero uso dei bordelli per i malati compulsivi da sesso, visto che pensa a tutto. Quello non so, forse in futuro si arriverà a quello. Diciamo che questo permetterà però alle persone di avere una cura gratuita dal servizio, dall'USL, dal servizio sanitario. In teoria io penso che si strapperanno le vesti dal piacere le persone che ascolteranno, sapendo che nei tagli fantasmagorici fatti alla sanità e in generale allo stato assistenziale si è pensato comunque ai malati di gioco d'azzardo. Cosa ne pensa Maurizio Fiasco? Beh, che apre una prospettiva, perché si riconosce intanto che questo consumo produce un rischio. Chi induce a questo consumo con la pubblicità, con la localizzazione, senza regole di sbarramento, ne risponde civilmente, perché si apre una strada di responsabilità civile per chi ha indotto delle persone a contrarre la patologia del... Scusa, ma non dovrebbe essere come sui pacchetti di sigarette, ho scritto nuoce notevolmente alla salute? Sì, ma il messaggio che infatti la pubblicità dà non è questo, dice divertitevi, datevi un'opportunità, farete un'esperienza fantasmagorica, ogni volta che giochi è come se fossi qui, e lo dice ai minorenni. Poi c'è anche tutta una serie di messaggi subliminali tipo erotico rivolti, sì, alle donne che bellissime, devono giocare ai cavalli, bellissime croupier, sì, donne e cavalli, ritorniamo. Quindi praticamente viene data una intonazione estremamente positiva, ma dei miti di innominabili connubi con cavalli di cui si favoleggiava negli anni 70. Fabio Felici, tu cosa ne dici in conclusione, visto che hai in mano il polso della attualità? C'è una grossa contraddizione comunque su questo tema, il nostro paese radicalmente sempre bigotto ancora non ha trovato una via laica di risoluzione. No, esatto, allora, rapidamente, ci sono società che hanno vinto delle gare pubbliche in cui nelle gare era previsto l'obbligo di fare pubblicità, lo Stato dice da una parte ti obbligo, dall'altra non la devi più fare, ma detto questo io ricordo che basterebbe rispettare le regole. Pochi giorni fa una società di gioco ha fatto uno spot che dove c'era Gesù Cristo che riempiva gli stadi, Gesù Cristo che faceva come... ma quella è pubblicità virale, si fa apposta perché i giornali scandalizzati ne parlino. No, esatto, però è stata proibita. Quindi è stata rispettata la regola, non è stata... Che entrava nelle sale giochi con la frusta e cacciava dalla sala giochi, era divertente, era però... Io tra l'altro non era neanche troppo irriverente. No, era molto divertente. Sì. Però le TV nazionali non l'hanno mandato in onda, l'hanno cazzato. Ma perché? Sì. Perché siamo un paese bigotto, quindi basta fare una finta pubblicità con Gesù Cristo, subito tutti... E stiamo qui a parlarne come se fosse una pubblicità vera. Grazie Rocchetti, grazie Intonti, ci sentiamo domani.